Capitolo 6. In realtà la prigione era stata un campo di battaglia fin dai tempi in cui avevamo solennemente deciso che, come questione di principio, non ci saremmo sottomessi alle regole che valevano per i comuni trasgressori della legge. Ma quando entrai a Holloway, quel giorno di aprile del 1913, ero pienamente consapevole di avere davanti a me una lotta più lunga di quelle che qualsiasi militante suffragista aveva dovuto affrontare fino a quel momento. Ho descritto lo sciopero della fame, quell'arma terribile con cui avevamo ripetutamente divelto le sbarre della nostra prigione. Il governo, non sapendo che pesci pigliare per far fronte alle detenute che facevano lo sciopero della fame e per dominare una situazione che aveva dato alle leggi d'Inghilterra una reputazione tanto scandalosa, era ricorso a una misura, sicuramente la più brutale mai portata davanti a un Parlamento moderno. Nel marzo di quell'anno, mentre aspettavo di essere processata con l'accusa di aver istigato a distruggere la casa di campagna di Lloyd George, un progetto di legge fu presentato alla Camera dei Comuni dal segretario di Stato, Reginald McKenna. Un progetto di legge che aveva come obiettivo dichiarato la disintegrazione dello sciopero della fame. Questo provvedimento, ora universalmente noto come Cat and Mouse Act, prevedeva che quando una detenuta suffragista che faceva lo sciopero della fame, la legge era chiaramente concepita per essere applicata solo sulle detenute suffragiste, veniva dichiarata dai medici del carcere in pericolo di morte, poteva essere rilasciata con una sorta di biglietto d'uscita allo scopo di farle riprendere le forze perché potesse scontare in seguito il resto della pena. Rimessa in libertà, restava una detenuta, dal momento che la prigioniera, o la paziente, o la vittima, come preferite chiamarla, veniva tenuta sotto stretta sorveglianza dalla polizia. Secondo i termini del progetto di legge, la detenuta veniva rilasciata per un certo numero di giorni, alla scadenza dei quali era inteso che tornasse in prigione per conto proprio. La legge dice: il periodo di congedo temporaneo può essere esteso, se il segretario di Stato lo ritiene opportuno, qualora lo stato di salute della detenuta sia evidentemente tale da renderla inabile a tornare in prigione. Se tale evidenza è provata, la detenuta sarà sottoposta a sua richiesta a esami medici da parte degli ufficiali sanitari della summenzionata prigione o da altri qualificati professionisti nominati dal segretario di Stato. La detenuta notificherà al commissario di polizia il luogo dove intenderà risiedere durante il congedo. Non potrà cambiare la sua residenza senza darne chiara informazione scritta al commissario, specificando la residenza dove si trasferirà, e non potrà assentarsi temporaneamente dalla sua residenza per più di 12 ore senza darne notizia con le stesse modalità. L'idea che le militanti suffragiste rispettassero una legge di questo tipo è quasi comica, eppure il sorriso sparisce davanti alla compassione che si prova per il ministro, la cui ammissione di fallimento è implicita in un tale provvedimento. Ecco qui un potente governo che decide in maniera poco convinta di non concedere giustizia alle donne, sapendo che non può sottomettere le donne con la forza e quindi ricorre a un compromesso con una legge classista assolutamente contraria ai suoi principi dichiarati. Promettendo alla Camera l'avanzamento della sua odiosa misura, McKenna disse: al momento attuale non posso far scontare a queste detenute le loro condanne senza un serio rischio di morte e voglio un potere che mi permetta di costringere una detenuta a scontare interamente la sua pena. E voglio quel potere in tutti i casi in cui una detenuta adotti il sistema dello sciopero della fame. Allo stato attuale, benché io abbia il potere di concedere il rilascio, non posso rimettere in libertà una prigioniera senza la grazia e devo rimetterla in libertà per sempre. Voglio il potere di rilasciare una prigioniera senza la grazia, tenendo viva la condanna. Voglio applicare la legge e voglio, se posso, applicarla senza l'alimentazione forzata e senza mettere a rischio la vita altrui. Interrogato da diversi parlamentari, McKenna ammise che il progetto di legge Cat and Mouse, se fosse stato approvato, non avrebbe eliminato l'alimentazione forzata, ma promise che si sarebbe ricorso all'odiosa e disgustosa pratica solo in condizioni di assoluta necessità. Vedremo in seguito quanto fosse ipocrita questa dichiarazione. Il Parlamento, che non aveva mai avuto il tempo di prendere in considerazione, oltre alle fasi iniziali, un provvedimento sul suffragio femminile, approvò il Cat and Mouse Act in entrambe le Camere nel giro di pochi giorni. Era già divenuto legge quando entrai a Holloway il 3 aprile 1913 e mi affliggeva sapere che molti membri del Partito Laburista, grandi sostenitori a parole del suffragio femminile, avevano contribuito a trasformarlo in legge. Naturalmente, sin dall'inizio, la legge fu vista dai suffragisti col massimo disprezzo. Non avevamo la minima intenzione di assistere all'applicazione da parte di McKenna di ingiuste condanne contro i soldati dell'Esercito della Libertà. E quando le porte della prigione si chiusero dietro di me, adottai lo sciopero della fame per farne esattamente come avrei fatto prima, lo strumento per conquistare la mia libertà. Quel sacrificio non è piacevole da ricordare. Fu usato ogni mezzo possibile per spezzare la mia ostinazione. Mi fu portato in cella il cibo più buono e invitante, e fu portato alla mia attenzione qualsiasi argomento: l'inutilità della resistenza al Cat and Mouse Act, l'immoralità di rischiare il suicidio. Non proverò neanche a ricordare tutti gli argomenti. Sbattevano contro una parete di coscienza nuda, perché i miei pensieri erano lontanissimi da Holloway e da tutti i suoi tormenti. Sapevo, come avrei appreso in seguito, in quanto dato di fatto, che la mia carcerazione sarebbe stata seguita dalla più grande esplosione rivoluzionaria che si fosse vista in Inghilterra dal 1832. Da un capo all'altro dell'isola, i fari della rivoluzione delle donne lampeggiarono notte e giorno. Molte case di campagna, tutte disabitate, vennero incendiate. La tribuna dell'ippodromo di Ayr fu rasa al suolo. Una bomba fu fatta esplodere alla Hoxted Station a Londra, demolendo muri e finestre. Alcuni vagoni ferroviari vuoti furono distrutti. I vetri di 13 famosi quadri della Manchester Art Gallery furono presi a martellate. Questi sono solo alcuni esempi della generale esplosione della guerriglia segreta dichiarata dalle donne verso la cui libertà era stato negato qualsiasi altro approccio dal governo liberale dell'Inghilterra libera. La sola reazione del governo fu la chiusura del British Museum, della National Gallery, del castello di Windsor e di altri siti turistici. Quanto all'effetto sul popolo inglese fu esattamente come ce lo aspettavamo. La gente fu gettata in uno stato emotivo di paura e insicurezza, eppure non dimostrava ancora di essere pronta a chiedere al governo di fermare le agitazioni nell'unico modo in cui potevano essere fermate, concedendo il voto alle donne. Sapevo che sarebbe stato così. Distesa nella mia cella di Holloway, tormentata dal dolore, oppressa dalla crescente debolezza, avvilita per la pesante responsabilità di eventi ignoti, ero tristemente consapevole che ci stavamo avvicinando a un traguardo lontano. La fine, seppur certa, era ancora distante. Pazienza e ancora più pazienza, fede e ancora più fede. Bene, avevamo già invocato l'aiuto di queste disposizioni d'animo ed eravamo sicure che non ci avrebbero abbandonato in questo momento di crisi il più forte di tutti. Così, nel tormento del corpo e dello spirito, trascorsi 9 terribili giorni, ciascuno più lungo e triste del precedente. Verso la fine, per fortuna, avevo quasi perso coscienza di quello che mi circondava. Una curiosa indifferenza si era impadronita dalla mia mente agitata e fu quasi senza emozione che venni a sapere il mattino del decimo giorno che stavo per essere momentaneamente rilasciata affinché potessi riprendermi. Il direttore venne nella mia cella e lesse il mio permesso, che mi impegnava a ritornare a Holloway entro 15 giorni e a osservare nel frattempo il rigido obbligo di informare la polizia dei miei movimenti. Con la poca forza che mi restava, strappai il documento e lo gettai a terra. Non ho intenzione, dissi, di sottostare a questa legge ignobile. Mi rilasciate sapendo perfettamente che non tornerò mai di mia volontà in una delle vostre prigioni. Mi mandarono via, seduta in verticale in una carrozza blindata, incuranti del fatto che ero in un pericoloso stato di debilitazione, avendo perso 10 chili e soffrendo in modo grave di scompensi cardiaci. Mentre lasciavo la prigione, mi accorsi con piacere che alcuni gruppi delle nostre donne stavano coraggiosamente davanti ai cancelli, come se fossero rimaste lì per una lunga veglia. In realtà, staffette di donne avevano picchettato il posto notte e giorno per tutto il tempo della mia detenzione. Le donne dei primi picchetti erano state arrestate, ma dato che ne arrivavano continuamente altre a prendere il loro posto, alla fine la polizia aveva ceduto e aveva permesso alle donne di marciare su e giù davanti alla prigione sventolando la bandiera. Alla casa di cura, dove venni condotta, appresi che Annie Kenny, la signora Drummond e il nostro fedele amico George Lansbury erano stati arrestati durante la mia carcerazione e che tutti e tre avevano fatto lo sciopero della fame. Appresi anche per conto mio che il governo si stava disperatamente adoperando per fare del Cat and Mouse Act, l'ultima trovata della sua fallimentare campagna, un successo. Senza curarsi delle ulteriori spese che sarebbero ricadute sui contribuenti di questo paese, il governo impegnò un'ampia forza di polizia supplementare appositamente per questo scopo. Mentre ero a letto, assistita dalle migliori risorse mediche per riprendere forze e salute, questi poliziotti speciali, informalmente chiamati Cats, sorvegliavano l'infermeria come fosse un castello assediato. Nella strada sotto la mia finestra, due detective e un agente di polizia stavano di guardia giorno e notte. Da una casa all'angolo del mio ricovero, altri tre detective vigilavano costantemente. Nelle case sul retro del mio edificio c'erano altri detective e due taxi con dentro i loro bei detective pattugliavano diligentemente le vie e sorvegliavano le strade principali, come se si aspettassero l'arrivo di un reggimento di salvataggio. Tutto ciò rese la guarigione lenta e difficoltosa, ma il peggio doveva ancora venire. Il 30 aprile, proprio quando cominciavo a ristabilirmi, si diffuse la notizia che la polizia aveva fatto irruzione nel nostro quartier generale di Kingsway e aveva arrestato tutte le nostre impiegate. La signorina Barrett, coordinatrice di The Suffragette, la signorina Lennox, vice direttrice, la signorina Lake, responsabile commerciale, la signorina Kerr, capo ufficio, e la signora Sanders, segretaria amministrativa della WSPU, furono arrestate pur non essendo state colte in nessuna azione militante. Fu arrestato anche il signor A.Z. Clayton, un chimico, con l'accusa di aver fornito materiale esplosivo alla WSPU. Gli uffici vennero perquisiti da cima a fondo e, come nella precedente occasione, furono strappati libri e documenti. Mentre succedeva questo, un altro gruppo di poliziotti, forniti di un mandato speciale, si dirigeva verso la tipografia, dove veniva stampato il nostro giornale, The Suffragette. Il tipografo, Drew, fu dichiarato in arresto e il materiale del giornale, che sarebbe dovuto uscire il giorno seguente, fu requisito. All'una del pomeriggio, tutte le attrezzature del quartier generale della WSPU erano nelle mani della polizia. E tutto faceva credere che il movimento militante, quantomeno per il momento, era sotto scacco. Nel mio stato di semi-prostrazione, all'inizio mi sembrava che fosse meglio rinunciare all'edizione settimanale del giornale, ma riflettendoci decisi che l'idea di arrenderci non andava neanche presa in considerazione. Come ci riuscivamo non è il caso di raccontarlo qui, ma comunque riuscimmo di notte con pochissimo materiale, tra cui l'editoriale di Christabel e qualche altro contributo recuperato in tutta fretta, a far uscire il giornale come al solito. E accanto ai giornali del mattino, che riportavano in prima pagina la storia della soppressione dell'organo delle suffragette, il nostro edicolante espose The Suffragette. La prima pagina recava, al posto della consueta vignetta, una singola parola in maiuscole in neretto: Raid it, assaltate. La storia della perquisizione della polizia e degli arresti era raccontata in dettaglio nelle altre pagine. Il nostro quartier generale, lo dico incidentalmente, rimase chiuso per meno di 48 ore. Siamo talmente organizzate che gli arresti non ci creano menomazioni gravi. Ognuna di noi ha una vice e quando una leader è fuori di gioco, una sostituta è pronta a prendere immediatamente il suo posto. In questa emergenza, al posto della signorina Kenny, si fece valere come principale organizzatrice la signorina Grace Roe, una delle giovani suffragette di cui io, appartenente alla generazione più vecchia, sono maggiormente fiera. Dovendo fronteggiare le difficoltà più serie che il governo riusciva a crearci, la signorina Roe si dimostrò da subito adatta a gestire la situazione e in possesso di un'incrollabile dedizione unita a una forte e rapida capacità di giudizio sulle cose e sulle persone. Ad aiutarla c'era la signora Drace Fox, che ci sorprese tutte con la sua straordinaria abilità di fungere da vice caporedattrice del Suffragette, di riuscire a sbrogliare un mucchio di situazioni in ufficio e di presiedere alle nostre riunioni settimanali. Un'altra associata della WSPU che si mise in mostra in questo momento di crisi fu la signora Mansell. Nel giro di 2 soli giorni l'ufficio fu riaperto e riprese a lavorare come prima, senza far trasparire evidenti segni del dispiacere e dell'indignazione che provavamo per le nostre compagne incarcerate. Molte di loro rifiutarono di avvalersi della cauzione e intrapresero lo sciopero della fame, comparendo 3 giorni dopo in tribunale per il processo in uno stato pietoso. La signora Drummond era così palesemente ammalata e bisognosa di cure mediche che fu rilasciata e di lì a poco operata. Il signor Drew, il tipografo, fu costretto a sottoscrivere l'impegno a non stampare più il giornale. Gli altri furono condannati a pene che variavano da 6 a 18 mesi di carcere. Il signor Clayton fu condannato a 21 mesi e dopo una disperata resistenza, durante la quale subì più volte l'alimentazione forzata, evase di prigione. Le altre, seguendo il suo esempio, cercarono la libertà allo stesso modo e da quel momento furono inseguite e nuovamente arrestate sotto il Cat and Mouse Act. Dopo il mio rilascio, il 12 aprile, restai nella casa di cura fino a quando non mi ripresi parzialmente. Poi, sotto lo sguardo vigile della polizia, andai in macchina a Woking, la residenza di campagna della mia amica Ethel Smith. Anche questa costruzione, così come la casa di cura, fu guardata a vista da un piccolo esercito di poliziotti. Non mi affacciavo mai alla finestra, non prendevo mai aria in giardino, senza l'impressione di avere gli occhi puntati addosso. La situazione divenne intollerabile e decisi di porle fine. Il 26 maggio c'era un gran raduno al London Pavilion e così informai le autorità che avrei voluto parteciparvi. Aiutata dalla dottoressa Flora Murray, della dottoressa Ethel Smith e della mia fidata infermiera Pine, scesi le scale e alla porta trovai ad attendermi un detective, il quale mi chiese dove stessi andando. Ero debole, molto più debole di quanto avessi immaginato, e con lo sforzo di oppormi al diritto dell'uomo che voleva contestare i miei movimenti, esaurii gli ultimi residui di energia che avevo e crollai svenuta fra le braccia delle mie amiche. Non appena mi fui ripresa, entrai in un'automobile. Il detective prese immediatamente il posto di fianco al mio e disse all'autista di dirigersi verso la Bow Street Station. L'autista replicò che prendeva ordini soltanto dalla signora Pankhurst, al che il detective chiamò un taxi e, dichiarandomi in stato di arresto, mi condusse a Bow Street. Secondo il Cat and Mouse Act, quindi, una detenuta in libertà condizionata poteva essere arrestata senza la formalità di un mandato e il tempo che aveva trascorso in libertà per riguadagnare un buono stato di salute, non veniva decurtato dalla sua pena detentiva. Pertanto il magistrato di Bow Street era tranquillo riguardo alla legittimità del suo ordine di riprendermi a Holloway. Sentii il dovere, comunque, di fargli notare la disumanità del suo atto. Gli dissi: sono stata rilasciata da Holloway per ragioni di salute. Da quel momento sono stata trattata esattamente come se fossi in carcere. È assolutamente impossibile che una persona guarisca in tali condizioni e stamattina ho deciso di fare questa protesta contro uno stato di cose che non è uguale nel mondo civilizzato. Il magistrato replicò in maniera ufficiale: potete comprendere da sola qual è la situazione. Siete stata arrestata in base a un'ingiunzione e tutto quello che io devo fare è diramare l'ordine di riportarvi in prigione. Io penso, dissi, che dovreste farlo assumendovene tutte le responsabilità. Se vengo ricondotta a Holloway su vostro mandato, ricomincerò la protesta che mi ha portato ad essere rilasciata e andrò avanti finché non sarò morta o fino a quando il governo non capirà, dal momento che si è assunto la responsabilità di incaricare voi e altre persone di amministrare la legge, che deve riconoscere le donne come cittadine e dar loro la possibilità di esercitare un controllo sulle leggi di questo paese. Questa volta lo sciopero durò 5 giorni, poiché le mie condizioni di estrema debolezza non mi davano la possibilità di tollerare un periodo più lungo. Fui rilasciata il 30 maggio per un congedo di una settimana e, mezzo moribonda, fui portata di nuovo in una casa di cura. Meno di una settimana dopo, mentre ero ancora costretta a letto, si verificò un evento terribile, uno di quelli capaci di scuotere l'imperturbabile opinione pubblica britannica fino a comprendere quanto gravemente fosse precipitata la situazione per colpa del governo. Emily Wilding Davison, membro del movimento militante fin dal 1906, diede la vita per la causa delle donne, gettandosi sulla strada della cosa che, dopo la proprietà privata, è più cara agli inglesi: lo sport. La signorina Davison andò alle corse dei cavalli a Epsom e, scavalcate le barriere che separavano la vasta folla dal percorso di gara, fece irruzione sulla pista in mezzo ai cavalli al galoppo. Riuscì ad afferrare le briglie del cavallo del re, che era in testa alla corsa. Il cavallo cadde, disarcionando il fantino e schiacciando la signorina Davison in maniera talmente spaventosa che fu portata via dalla pista agonizzante. Fu tentato il possibile per salvarle la vita. Il grande chirurgo Mansell Moulin mise da parte qualsiasi giudizio personale e si dedicò anima e corpo al suo caso, ma pur se la operò con grande abilità, le ferite che aveva riportato erano talmente gravi che morì 4 giorni dopo senza aver ripreso conoscenza. Le erano accanto alcune associate della WSPU quando esalò l'ultimo respiro, l'8 giugno, e il 14 le fu organizzato un grande funerale pubblico a Londra. La folla si schierò ai bordi delle strade, mentre il carro, seguito da migliaia di donne, passava lentamente e tristemente fino alla chiesa di St. George a Bloomsbury, dove si tenne il servizio funebre. Emily Wilding Davison era una figura paradigmatica di una lotta come la nostra. Si era laureata alla London University ed era uscita da Oxford col massimo dei voti in lingua e letteratura inglese. Eppure la causa delle donne aveva esercitato una tale attrattiva verso la sua ragione e il suo sentimento che aveva messo da parte qualsiasi ambizione sociale e intellettuale per votarsi instancabilmente e coraggiosamente al lavoro nella nostra associazione. Aveva subito molte carcerazioni, l'alimentazione forzata e i trattamenti più brutali. In un'occasione, quando si era barricata in cella per respingere i medici della prigione, le fu puntata contro dalla finestra una manichetta antincendio, che la inzuppò fin quasi ad affogarla nell'acqua gelida, mentre gli operai buttavano giù la porta della cella. La signorina Davidson, dopo questa esperienza, espresse a molte delle sue amiche la convinzione che a quel punto, in quei tempi incivili, la coscienza della gente poteva essere risvegliata solo col sacrificio della vita umana. Una volta in carcere, tentò di uccidersi gettandosi a testa in avanti da una delle balconate più alte, ma riuscì soltanto a procurarsi delle ferite gravi. Da allora in poi si attaccò alla propria convinzione che solo una grande tragedia, il deliberato martirio di una vita umana, avrebbe messo fine all'intollerabile tortura delle donne. E così si gettò davanti al cavallo del re, in piena vista del re, della regina e di una moltitudine di sudditi di Sua Maestà, offrendo la sua vita come una petizione al re, implorando per la liberazione di donne sofferenti in tutta l'Inghilterra e nel mondo. Nessuno può ragionevolmente dubitare che quella preghiera rimanga per sempre inascoltata, perché la fece proprio davanti al trono del re in tutti i modi. La morte della signorina Davidson fu per me un grande shock e anche un grande dolore, e per quanto fossi a malapena in grado di alzarmi dal letto, decisi di rischiare tutto e di partecipare al suo funerale. Non mi fu tuttavia possibile, poiché non appena lasciai la casa di cura, fui nuovamente arrestata dai detective che mi aspettavano di fuori. Si rinnovò la farsa di provare a farmi scontare una condanna a 3 anni di carcere, ma adesso le donne militanti avevano scoperto una nuova e ancora più terribile arma con cui sottrarsi alle ingiuste leggi d'Inghilterra. E quest'arma, lo sciopero della sete, io la puntai contro i miei carcerieri con tale efficacia che furono costretti a rilasciarmi nel giro di 3 giorni. Ho descritto lo sciopero della fame come un tremendo calvario, ma è un'esperienza leggera rispetto allo sciopero della sete, che è dall'inizio alla fine una semplice e completa tortura. Lo sciopero della fame fa diminuire di peso la detenuta molto rapidamente, ma lo sciopero della sete riduce il peso in maniera così allarmante e veloce che gli stessi medici della prigione all'inizio andarono nel panico. In seguito si sarebbero in qualche modo assuefatti, ma ancora adesso guardano lo sciopero della sete come autentico terrore. Non sono sicura di essere capace di comunicare al lettore l'effetto di giorni passati senza una singola goccia d'acqua immessa nel sistema. Il corpo non può resistere alla mancanza di umidità. Urla la sua protesta con ogni nervo. I muscoli si sfibrano, la pelle rinsecchisce e diventa floscia, i lineamenti del viso si alterano in modo orribile e tutti quegli sintomi esteriori sono l'eloquente prova dell'acuta sofferenza di tutta la struttura fisica. Ogni funzione naturale è ovviamente sospesa e i veleni, che non riescono ad essere espulsi dal corpo, vengono trattenuti e assorbiti. Il corpo diventa freddo e tremolante, si avvertono forti nausea e mal di testa. E talvolta sopraggiunge la febbre. La bocca e la lingua diventano dure e gonfie, la gola si inspessisce e la voce si riduce a un flebile sussurro. Quando alla fine del terzo giorno del mio primo sciopero della sete fui mandata a casa, ero in uno stato di itterizia da cui non mi sono mai più completamente ripresa. Mi ero ammalata talmente tanto che le autorità del carcere non fecero alcun tentativo di arrestarmi di nuovo per almeno un mese dal mio rilascio. Il 13 luglio mi sentivo abbastanza forte per riprendere la protesta contro l'odioso Cat and Mouse Act e con Annie Kenny, anche lei libertà condizionata per motivi di salute, mi recai alla riunione del London Pavilion. Al termine della riunione, durante la quale il permesso della prigione della signorina Kenny fu venduto all'asta per 12 sterline, tentammo per la prima volta apertamente la fuga che avevamo già compiuto spesso. La signorina Kenny dal palco annunciò che saremmo uscite dalla sala apertamente davanti a tutti e come se niente fosse si incamminò tra il pubblico. La polizia irruppe in numero soverchiante e dopo una lotta disperata riuscì a catturarla. Altri detective e poliziotti entrarono di corsa dall'ingresso laterale per intercettare me, ma io li delusi uscendo dalla porta davanti e scappando in taxi a casa di un'amica. La polizia mi rintracciò presto a casa della mia amica, l'illustre scienziata Eartha Ayrton, e il luogo divenne immediatamente una fortezza assediata. La casa era cerchiata notte e giorno, non solo dalla polizia, ma da frotte di donne simpatizzanti. Il sabato successivo alla mia apparizione al Pavilion, regalammo ai poliziotti un po' di eccitazione di un tipo che non sanno apprezzare. Un taxi si fermò davanti alla porta della signorina Ayrton e diverse associate della WSPU, ben riconoscibili, scesero e si infilarono di corsa in casa. In un attimo si sparse la voce che era in atto un tentativo di liberazione e la polizia si radunò con decisione attorno al taxi. Poco dopo una lotta velata, comparve sulla porta d'ingresso, circondata dalle suffragette, che quando la donna velata tentò di salire sulla vettura, resistettero con tutta la loro forza al tentativo della polizia di metterle le mani addosso. Si alzarono grida da tutte le parti. «Stanno arrestando la signora Pankhurst!» Iniziò una cosa molto simile a una lotta libera che tenne impegnata l'attenzione della polizia che non era nelle immediate vicinanze del taxi. Gli uomini, che accerchiavano quel veicolo dondolante, riuscirono a strappare la figura velata dalle braccia delle altre donne e la lanciarono nel taxi, ordinando all'autista di correre a tutta velocità verso Bow Street. Prima che fossero giunti a destinazione, tuttavia, la signora velata alzò il velo e, sorpresa, non era la signora Pankhurst, che in quell'esatto momento stava schizzando via su un altro taxi verso un'altra destinazione. La nostra trovata fece infuriare la polizia, che si ripromise di arrestarmi alla mia prima apparizione pubblica, che fu al Pavilion il lunedì seguente all'episodio appena raccontato. Quando raggiunsi il Pavilion, lo trovai letteralmente circondato dai poliziotti, ce n'era una centinaia. Riuscii a intrufolarmi attraverso il cordone esterno, ma Scotland Yard aveva schierato gli uomini migliori all'interno della sala e non mi fu permesso di raggiungere il palco. Accerchiata da uomini in abiti civili, muniti di sfollagente, non potevo scappare, ma urlai alle donne che ero stata presa e queste si dibatterono così valorosamente per salvarmi che la polizia ebbe le mani impegnate per una buona mezz'ora prima di riuscire a buttarmi in un taxi diretto a Holloway. Quel giorno furono arrestate 6 donne e ben più di 6 poliziotti rimasero temporaneamente inabili a svolgere il loro lavoro. A questo punto avevo deciso che mi sarei rifiutata non solo di restare in prigione, ma mi sarei opposta con tutte le forze anche solo a entrarci. Quindi, una volta che fummo arrivate a Holloway, mi rifiutai di scendere dal taxi, dichiarando ai miei aguzzini che non mi sarei più adeguata al lento omicidio giudiziario a cui il governo stava sottoponendo le donne. Fui trascinata fuori e portata in una cella dall'ospedaliera del carcere. Le secondine che erano di turno in quel settore mi parlarono con gentilezza, suggerendomi, dato il mio aspetto esausto e malandato, che avrei fatto meglio a spogliarmi e mettermi a letto. No, replicai, non andrò a letto, non ci andrò neppure una volta finché starò qui. Sono stufa di questo gioco crudele e intendo fermarlo. Senza svestirmi, mi stesi accanto al letto. In serata il medico della prigione venne a visitarmi, ma rifiutai di farmi toccare. Al mattino venne di nuovo e con lui c'erano il direttore e la capocarceriera. Dato che non assumevo cibo né acqua dal giorno precedente, il mio aspetto era cambiato al punto che il dottore ne rimase palesemente sconcertato. Mi pregò, come una piccola concessione, di lasciargli sentire il mio battito, ma io scossi la testa e mi lasciarono in pace per tutto il giorno. La notte stetti così male da cominciare a preoccuparmi seriamente delle mie condizioni, ma sapevo che non c'era altro da fare se non attendere. Il mercoledì mattina il direttore ritornò e mi chiese con mancanza di riguardo se era vero che stavo rifiutando sia il cibo che l'acqua. È vero, dissi, e lui replicò duramente. Siete molto economica da mantenere. Poi, come se la cosa non fosse una ridicola farsa, annunciò che ero condannata ai 3 giorni di isolamento con privazione di tutti i privilegi. Dopodiché lasciò la mia cella. Per 2 volte quel giorno il dottore venne a visitarmi, ma non gli permise di toccarmi. Più tardi venne un ufficiale medico del segretario di Stato al quale avevo esposto le mie rimostranze, come le avevo esposte al direttore e al medico del carcere, per i dolori di cui ancora soffrivo a causa del brutale trattamento che avevo ricevuto al Pavilion. Entrambi i medici insistevano perché permettessi loro di visitarmi, ma io dissi: Non vi permetto di visitarmi perché il vostro intento non è di aiutarmi come una paziente, ma semplicemente di verificare per quanto tempo sarà possibile mantenermi viva in prigione. Non sono disposta ad aiutare voi e il direttore in alcun modo. Non sono disposta a sollevarvi dalle responsabilità che avete in questo caso. Aggiunsi quanto fosse evidente che ero molto malata e inadatta a restare chiusa in prigione. Esitarono per un momento, poi mi lasciarono. Il mercoledì notte fu un vero incubo di sofferenze e al mattino del giovedì devo essermi presentata con un aspetto quasi mummificato. Dalle espressioni del direttore e del dottore che vennero nella mia cella, dedussi che stavo organizzando il mio immediato rilascio. Ma le ore passavano e non arrivò alcun ordine di liberazione. Decisi che dovevo forzare il mio rilascio, mi alzai dal letto e cominciai a barcollare su e giù per la cella. Quando le forze mi vennero a mancare e non riuscii più a stare in piedi, mi distesi sul pavimento di pietra e lì, alle 4 del pomeriggio, mi trovarono affannata e mezza svenuta. E a quel punto mi mandarono via. Questa volta ero davvero in condizioni di estrema debolezza e dovetti assumere delle soluzioni saline per salvarmi la vita. Sentivo però di aver rotto le sbarre della mia cella una volta per tutte, e così fu. Il 24 luglio fui rimessa in libertà. Pochi giorni dopo fui accompagnata in sedia a rotelle al palco del London Pavilion. Non riuscivo a parlare, ma ero lì, come avevo promesso. Il mio congedo, che stavolta non avevo strappato poiché aveva un forte valore, fu venduto a un americano presente per la cifra di 100 sterline. Uscendo dal carcere, avevo detto al direttore che avrei venduto il mio permesso e che avrei speso il ricavato per scopi militanti, ma non mi aspettavo certo di raccogliere l'eccezionale somma di 100 sterline. Non potrò mai dimenticare la generosità di quello sconosciuto amico americano. Nell'estate del 1913 si teneva a Londra un importante congresso medico. E l'11 agosto organizzammo un grande raduno al Kingsway Hall, a cui parteciparono come visitatori centinaia di medici. Fui io a guidare quell'assemblea, durante la quale fu approvata una squillante risoluzione contro l'alimentazione forzata, e alla fine mi fu concesso di tornare a casa senza l'interferenza della polizia. Era in effetti la seconda volta in un mese che riuscivo a parlare in pubblico senza essere molestata. La presenza a Londra di così tante illustri personalità della medicina aveva consigliato alle autorità di lasciarmi in pace, almeno per il momento. In ogni caso, fui accontentata e alla fine del mese, senza nascondere il viaggio, andai a trovare mia figlia Cristabel a Parigi per pianificare insieme a lei la campagna dell'imminente autunno. Avevo bisogno di riposo dopo le fatiche degli ultimi 5 mesi, durante i quali avevo scontato dei miei 3 anni di carcere non più di 3 settimane.